Quella comunque. Trovo di essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Ma che fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Fermo ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato. Ma a me non mi sta migliorando. Gitana mia, por lo menos date cuenta. Gitana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Gitana mia, por favor. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. ¡Me estás dando! Sí. Mani in alto, fuori di qua. No resteremo più prigionieri, ma evaderemo. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire senza perdere un'ora. Liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. Quando il sole che sbuca dentro a sta cella, se imbuca cielo, posso guardarla. E guardo il sole che sbuca dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Allora, le 15.04, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che viene onda tutti i mercoledì, infatti oggi è mercoledì e sono le 15.04 minuti primi e questa è Radio Onda Rossa. Dunque, la trasmissione di quest'oggi inizia con uno sguardo che diamo e che dovremmo dare sempre più in maniera, diciamo, come dire, approfondita e intensa a quelli che sono il tourbillon di processi che stanno gravando un po' su questo paese, in particolare su quelli che sono le realtà che si muovono, che lottano, che si organizzano. E tutti hanno visto, perché ne hanno parlato i giornali in prima pagina, degli arresti del movimento Notav in Val di Susa, un movimento che da diversi anni lotta con un'adesione di massa, pressoché tutta la popolazione della Val di Susa è contraria a quell'opera mostruosa e devastante del treno ad alta velocità, e tuttavia appunto la repressione di Stato ha deciso di colpire un movimento di massa sostanzialmente pacifico che però diceva no, lo diceva in maniera secca alla devastazione del loro territorio. Poi sono tanti altre che non ne parlano in giornali in prima pagina, le azioni di repressione contro chiunque si muove. Da un po' di tempo a questa parte abbiamo dei numeri che sono spaventosi, che tra un po' vi racconteremo. Il la repressione di Stato si rivolge nei confronti del movimento dell'occupazione delle case. Sappiamo che in Italia e soprattutto nelle grandi città, Roma per esempio, fin dal secondo dopoguerra, quindi ormai è più di mezzo secolo che vive una emergenza abitativa spaventosa, sia perché gli affitti sono altissimi sia perché proprio manca un'edilizia popolare. È un tema dibattuto dai convegni, dai congressi, dagli studiosi, e però poi fino a lì se ne parla. L'Italia, soprattutto le grandi città, Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino, sono le città che è il paese, se lo mettiamo per le, appunto nelle grandi città, che in rapporto agli altri paesi europei ha molto meno di tutti gli altri un'edilizia popolare. Di gran lunga, per esempio, rispetto anche a paesi come la Francia, la Germania, non esiste, non parliamo di quelli del nord Europa, una percentuale bassissima, pressoché inesistente, di edilizia popolare, né un intervento da parte del pubblico sul terreno, appunto, degli affitti privati, che sono lasciati in mano a una vera e propria giungla in cui appunto i palazzinari, i padroni delle case, fanno il bello e il cattivo tempo. Ovviamente oltre ai convegni e dibattiti, appunto, chi si oppone a questa giungla della rapina per chi ha bisogno di un tetto per coprirsi è la gente che non ha casa, e quindi si è sviluppato appunto da tantissimi anni i movimenti di occupazione per la casa. Sono stati sempre repressi, ma da un po' di tempo a questa parte c'è un incremento di questa repressione, evidentemente. Poi basta guardare i nomi, le classi dirigenti di questo paese sono sempre più vicine, per non dire intrecciate, ai palazzinari, a coloro che vivono sul cemento, sul mattone. L'imprenditoria italiana, che in queste grandi città la fa da padrone, a Roma in particolare, ma anche a Napoli, a Palermo, sono proprio appunto gli imprenditori del mattone, e loro decidono anche le politiche amministrative delle giunte comunali e anche quelle, purtroppo, della repressione. Oggi parliamo di un caso, uno dei più eclatanti in questa città, per la forma, il modo aggressivo con cui è stato messo in atto, una vera e propria, come dire, hanno mosso centinaia di armati per stroncare un movimento di occupazione, e però appunto il caso poi si diffonde, sono numeri che poi tra un po' vi daranno i compagni, spaventosi, dei processi, quindi delle incriminazioni, della repressione giudiziaria nei confronti di chi occupa una casa. Adesso abbiamo i compagni qui con noi dell'occupazione dell'8 marzo, che ormai è quasi 2 anni e mezzo, 2 anni e 5 mesi fa il fatto, una grossa, così, un vero e proprio esercito di armati si scatenò contro un'occupazione tranquilla che viveva da tempo e che gestiva con le sue difficoltà, con cui vivono tutte le occupazioni, la possibilità appunto di dare un tetto a chi ne aveva bisogno. Ne parliamo oggi perché venerdì, dopodomani, ci sarà l'udienza al Tribunale qui a Piazzale Clodio di Roma, per questa grande montatura, sia per appunto per come è stata fatta l'aggressione verso questi compagni e compagne e occupanti, sia perché per il tipo di incriminazioni a cui sono stati sottoposti queste persone che occupavano, e sia perché ci sembra che questo possa essere un campanello d'allarme perché appunto così sembra che sia per la repressione di Stato, un campanello d'allarme per bloccare un processo che è in espansione, un movimento che è in espansione, che è quello appunto per la casa. Il movimento per la casa oggi si sta diffondendo, e quindi questo sembra un segnale per dire, per far dire allo Stato: noi stiamo dalla parte dei palazzinari, insomma, cercate per stroncare ogni volontà di lotta sul terreno delle abitazioni. Partiamo allora proprio dalla coda, a partire dopodomani, venerdì mattina, a Piazzale Clodio alle ore 11, ci sarà appunto, e quindi tra l'altro facciamo questa remissione non solo per ricordare il fatto e per, anche per chiamare tutte e tutti a una grossa mobilitazione, perché questo problema interessa a tutti, cioè oggi appunto interessa i compagni dell'occupazione 8 marzo di Magliana, domani può interessare altri e così via. Allora, venerdì ci sarà questa iniziativa, cioè inizia il processo e quindi l'appuntamento è alle 11. Allora, ciao intanto. Buonasera a tutte e a tutti e grazie come sempre per lo spazio. E sì, appunto, come dicevi, l'appuntamento che abbiamo dato è per venerdì dopodomani alle 11 a Piazzale Clodio, anche se in realtà, insomma, vogliamo anche sottolineare che in contemporanea al nostro processo, proprio perché in questo periodo, come dicevi tu prima, la mano della repressione è abbastanza pesante e viene calcata, c'è anche il processo verso altri compagni e quindi, insomma, diciamo che solidarizziamo tutti quanti per la stessa condizione repressiva che abbiamo vissuto e viviamo, e quindi l'appuntamento, diciamo, facciamo una piccola correzione, lo diamo alle 10 in modo che siamo tutti lì anche con loro. Certo. Diciamo che, insomma, ecco, ricostruendo un pochino le vicende, proprio per fare una piccola premessa per chi non si ricorda i fatti o, insomma, per chi li ha dimenticati, diciamo che sostanzialmente noi occupammo nel 2007, a giugno del 2007, proprio per dare una risposta all'emergenza abitativa che vive questa città, che è una costante che appunto caratterizza questa città. E quindi di fatto poi tramite un metodo che, insomma, c'è abbastanza caro e che condividiamo, che è quello di dare una risposta auto-organizzandoci ai problemi che viviamo tutti quanti direttamente in prima persona e per, insomma, dare una risposta alle necessità che abbiamo organizzato questa occupazione, abbiamo occupato tutte e tutti e abbiamo vissuto una dinamica di occupazione che è abbastanza una dinamica comune e simile a tutte le occupazioni, penso, di questa città, almeno perché per quanto ne conosco io, ma anche simili in altri posti che non, fuori da questa città. E siamo andati avanti, insomma, per qualche anno convivendo e, diciamo, autogestendoci sia a livello interno che, insomma, nel panorama romano della lotta per la casa. E fino a che, appunto, proprio perché in questa città il problema abitativo è un problema forte e i poteri legati all'edilizia e alle gestioni di tutto questo meccanismo sono abbastanza potenti e forti, tanto da arrivare al punto che abbiamo subito una repressione a settembre del 2009, che fu una repressione abbastanza, come dire, scenografica, eclatante, con questo teorema costruito a misura proprio per far risultare la lotta per la casa più che altro come un metodo criminoso gestito da associazioni a delinquere che lucrano sul bisogno abitativo, cioè un modo, insomma, abbastanza disgustoso e, come dire, pure un po' preoccupante di far sì che le lotte auto-organizzate si trasformino in crimini e quindi facilitando poi la repressione in merito. Perché poi di fatto il movimento di lotta per la casa a Roma è un movimento molto forte che dà una risposta abbastanza concreta a questa situazione. E quindi questa è stata la maniera per stroncare, per diciamo avviare un meccanismo che, come dire, in un certo qual modo internamente portasse a una sorta di autodistruzione, no? Invece in realtà, per fortuna, la cosa bella che, insomma, ci è accaduta in mezzo a tutto questo panorama abbastanza brutto e preoccupante è stata che c'è stata una risposta forte da parte di tutti i compagni e le compagne sia singoli e singole che da tutto il movimento di lotta per la casa in generale e le altre strutture a Roma che fanno politica. Quindi insomma, da questo punto di vista, per fortuna non siamo mai stati soli e siamo sempre stati supportati e abbiamo ricevuto sempre molta solidarietà, e forse questo è stato quello che poi in un certo qual modo ha lasciato un segno all'interno di tutto il meccanismo giudiziario, perché poi con noi ci sono andati giù in maniera abbastanza pesante, cioè abbiamo subito arresti, incarcerazioni, arresti domiciliari, insomma tutto quel passaggio repressivo, certo. Sì, pesante e classico che usano poi per le insomma per quelle dinamiche più legate a una criminalità, se vogliamo, anche se poi insomma abbiamo sempre ritenuto in ogni ambito sbagliate che non portano a niente, e per fortuna la solidarietà e diciamo la risonanza politica che insomma ha avuto la nostra dinamica ha fatto sì insomma che questa situazione non fosse collocata all'interno di questo meccanismo che volevano loro, che era quello della dell'associazione criminale che lucrava su appunto la necessità di avere un posto dove abitare, ma invece si è collocata all'interno di questo panorama di lotta. E diciamo che poi insomma tutti i passaggi giudiziari sono stati quelli più o meno, diciamo sono stati questi, dalla carcerazione siamo passati ai domiciliari, dai domiciliari all'obbligo di firma, finché poi siamo passati ad arrivare alla fase processuale, insomma. Diciamo che inizialmente un po' di accuse durante il tribunale di riesame erano cadute. Poi dopo qualche anno di indagine ancora aperta e insomma tutti questi vari processi, passaggi che ci sono stati nel frattempo dalla nostra liberazione al vero e proprio la prima udienza, che è quella poi che c'è venerdì, che è l'udienza preliminare, diciamo che inizialmente erano cadute una serie di accuse che poi sono state riproposte mo in questa fase, cioè quando poi siamo stati chiamati per l'udienza preliminare le abbiamo ritrovato che ci vengono ricontestati tutti completamente i reati, che poi sono un quantitativo di capi d'accusa che stanno insomma sull'ordine di... sì. Ecco, però io mi soffermerei un attimo su questo, sì, per capire se c'è un paradigma che si sta sviluppando, no? Anche perché noi abbiamo esperienze che è successo in altre situazioni, cioè il movimento di lotta per la casa occupa le case da sempre, appunto dico dal dopoguerra, addirittura nel dopoguerra le faceva pure il PC, le occupazioni di case, quindi non è il PSI, non è una cosa che nasce adesso, e quindi la repressione in qualche modo ha sempre osteggiato lo sviluppo dei movimenti, però le accuse che fino a qualche anno fa prendeva quelli che occupavano le case era occupazione, se era appunto di spazio pubblico perché erano scuole eccetera, oppure case private, cioè il reato era occupazione, e va bene, era un reato abbastanza minimo con cui riusciva a dialettizzarsi, diciamo così, il movimento, cioè subiva la repressione, poi ci lottava contro, e questo meccanismo permetteva uno sviluppo, una dialettica, anche una pressione, perché a volte alcune amministrazioni sotto questa pressione in qualche modo cedeva e quindi si soddisfacevano in minima parte chiaramente alcuni bisogni. Da un po' di tempo a questa parte, qui forse vediamo se troviamo il periodo in cui scatta questo meccanismo, perché quello che avete subito voi invece è tutt'altro, non c'entra niente l'occupazione, non è quello il reato, addirittura il reato di estorsione salta veramente a un altro livello, è un altro tipo di cosa, quindi si prefigura un paradigma, qualcuno ha costruito, ha pensato, ha immaginato, ha lavorato, alcune teste pensanti si sono messe a lavorare perché sapevano che quel tipo di repressione, quella normale, appunto lo sgombero oppure l'incriminazione per occupazione, è poca cosa e non fermava, non distruggeva il movimento. Evidentemente loro hanno interesse non solo di diciamo contrastare un movimento, ma di distruggerlo, e quindi hanno messo in piedi questo paradigma che è preoccupante se si sviluppa. Tra l'altro tu mi dicevi poco fa che non è solo nel caso vostro, comincia a diffondersi il fatto di sviluppare questo diciamo questo reato, questa fattispecie che è abbastanza che appunto individua un'azione criminale. Ma sì, intanto appunto voglio ricordare pure che la repressione tra virgolette ordinaria, cioè quella che da sempre subisce, cioè, chi, esatto, fa le lotte sociali, investe tutti i movimenti che riescono a creare conflitto, e in particolare quello sulla, a Roma, di lotta per la casa, conta a centinaia i procedimenti a suo carico in corso, e gli imputati ne contano in diverse centinaia. E quindi già fa impressione per la mole di se non per i capi di imputazione, che comunque sono sempre i più vari, e la mole è impressionante, e con esso anche l'onere di seguirlo, anche ricordiamo l'onere economico che ciò comporta. E, sicuramente, quindi il caso nostro ovviamente si inserisce in quel filone. Dopodiché sicuramente c'ha delle peculiarità anche grottesche, se vogliamo, che però anche quelle non è che sono, non è che è un caso isolato, tant'è vero che diciamo la prassi di descrivere in maniera fantasiosa le realtà di lotta per poter contestare reati più gravi, o comunque che non hanno a che fare con lotta ma con la criminalità comune. E, appunto, mi vengono in mente, sicuramente ce ne stanno altri che non mi ricordo, ma mi vengono in mente differenti casi, a cominciare da i processi per Genova, che rispolverarono il famoso reato di devastazione e saccheggio che non veniva usato ai tempi della guerra, per arrivare ai compagni dei disoccupati napoletani, o l'inchiesta sui compagni di Brindisi, o in cui si contesta il reato di estorsione perché con la mobilitazione, con la lotta, con le occupazioni, con le manifestazioni si, tra virgolette, estorceva l'incontro, la delibera, il tavolo, certo. O addirittura, non ricordo i dettagli, ma mi ricordo di un caso in cui alcuni operai di una ditta veniva contestato il fatto che attraverso lo sciopero e il picchetto estorcevano un aumento salariale. Certo. Chiaramente è una cosa ridicola sotto qualunque punto di vista, però intanto comporta un reato la cui pena massima sicuramente è maggiore di quella che potresti rischiare per, che ne so, manifestazione non autorizzata, cioè, e quindi... E tutto l'iter processuale è tutto diverso, diventa molto più pesante. Esattamente. E quindi questo è un po' il dato. E aggiungo pure... visto che è successo pochi giorni fa, un altro episodio preoccupante, che è quello dello sgombero dell'occupazione sabato scorso sotto la neve, in cui appunto Monfignola. A Montagnola, in cui il coordinamento cittadino di lotta per la casa, insieme a 200 famiglie senza casa, acuita ulteriormente dall'emergenza freddo, aveva fatto poi quella che è la prassi normale dell'occupazione, cioè occupare uno stabile abbandonato. Di proprietà, in quel caso era dell'Inarcassa, destinato a niente, cioè alla speculazione, in cui si è riscontrato, oltre a un atteggiamento delle forze dell'ordine volto allo sgombero fin dal primo minuto, durissimo, minacce e cose, ma anche dinamiche poco chiare ma molto antipatiche, in cui i due compagni sono stati presi in ostaggio sostanzialmente con uno stratagemma, con la scusa di andiamo a trattare, a una trattativa, si sono portati in commissariato e gli hanno fatto capire sostanzialmente che avrebbero rischiato denunce per anche, insomma, di essere trattenuti con accuse non sappiamo quali, perché poi non sono state fatte, a meno che lo stabile non fosse stato liberato. Quindi una gestione della questione della lotta per la casa che comunque vada, diciamo, è una cioè voglio dire, anche a prescindere da quello che possono organizzare i compagni, finché la situazione abitativa a Roma sarà quella, ci sarà la gente che occupa. Ovviamente la scelta è molto chiara, insomma, quella della modalità di gestione con minacce a chi si organizza e dall'altro lato solo sul piano dell'ordine pubblico è già di per sé una scelta, e si è conclusa con la dichiarazione del questore che sostanzialmente invita i proprietari dei palazzi a rafforzare la sorveglianza sui palazzi vuoti, perché per non rischiare, cioè una roba oltre che essere ridicola non dovrebbe riguardare il questore comunque. E appunto, perché la scelta politica, tutta politica, è quella che sostanzialmente si spendono i soldi per tenere i palazzi vuoti, si spendono i soldi per pagare gli interventi in massa delle forze dell'ordine, stessi soldi che invece potrebbero essere spesi per recuperare quei palazzi, diciamo, e dare risposta alle questioni abitative senza necessariamente devastare i nostri territori. Certo. E poi si mette un problema, diciamo, una dialettica tra amministratori e popolazione, che c'è sempre stata e c'è in molti posti, e che è una dialettica di lotta, ovviamente, di conflitto, ma che viene appunto, sta all'interno di quel quadro, si mette su un terreno militare, un terreno tutto appunto di forza, brutale, duro, e che questo è abbastanza preoccupante, perché sembra che appunto vogliono espungere il conflitto, cioè tirar via, cancellare proprio il conflitto che è la sostanza delle società, no, che conosciamo, che vengono chiamate un po' così democratiche, però sono tali soltanto se il conflitto può esprimersi e se questo mette in luce i problemi che ha la gente perché vengano risolti. Quindi è un po' preoccupante il dato, anche appunto, diciamo, all'inizio il problema della Val di Susa, no? Una lotta così vasta, eccetera, hanno preso poi un numero consistente di persone, anche con accuse anche qui ridicole, anche addirittura persone zoppe, anziane, siamo un po', e con il chiaro intento di volere appunto debilitare, stroncare militarmente una lotta. Quindi diventa un approccio militare da parte dello Stato e dei poteri forti nei confronti di ogni tipo di conflitto. Ecco, di fronte a questa cosa, chiaramente non è qui che lo facciamo adesso, però il movimento si dovrà porre una serie di problemi, perché un salto che fa lo Stato, che fanno i poteri forti rispetto al volere annientare, azzerare il conflitto, è un problema perché fa perdere quelle minime garanzie cosiddette democratiche che, insomma, sembrava che ci fossero. Ecco, quindi voglio dire, il significato che voi date appunto alla vostra così dinamica processuale, gli voglio dare anche un significato un po' più vasto? Ma sì, era quello che dicevamo, insomma, nel senso che appunto il nostro processo è uno dei tanti, ci stanno, ma dei tantissimi, anzi direi, ha delle peculiarità, per cui diciamo, che sono quelle che diciamo prima, cioè il fatto di essere, che i reati che vengono contestati hanno nulla a che vedere con la lotta, per cui bensì hanno a che vedere con la criminalità comune. È chiaro che questo passaggio è un passaggio che va stoppato sul nascere, proprio perché, diciamo, il timore più grosso è che questo tipo di meccanismo possa riproporsi ed espandersi. Se invece, anche perché poi quello che succede in questi processi molto spesso è che poi gli esiti processuali non sempre sono drammatici come quando iniziano, proprio per l'infondatezza e l'inconsistenza delle accuse. Il problema è che la gestione che viene fatta dei procedimenti ha ben poco a che vedere con la giurisprudenza, invece molto a che vedere con la repressione, per cui chi se ne importa se poi al dibattimento dove comunque hai più strumenti per difenderti anche sul piano legale, le accuse cascano, l'importante è averti, diciamo, punito in anticipo col carcere preventivo, averti comunque, per questo anche va detto, assorbito un sacco di tempo e di energie, certo, a te, certo, e a chi ti esprime solidarietà, certo, rispetto a, perché voglio dire, ora noi lanciamo il presidio a Piazzale Clodio, però tutto sommato è una perdita di tempo, certo, perché invece di stare a Piazzale Clodio, chissà, là potrebbe stare a fare lotte altrove. Sono tutte energie tolte al movimento che appunto dovrebbe produrre lotte, ma abbiamo visto pure gli arrestati del 15 ottobre, gli arrestati del 14 dicembre di 2 anni fa, cioè qualcuno ha preso pure 4 anni e mezzo, cioè cominciano a andare un po' fuori di quello che è la normale, diciamo normale perché la consuetudine, noi sappiamo che il conflitto porta con sé in questa situazione, che sappiamo è sempre stata appunto poco democratica, porta con sé una repressione, però questa è fisiologica se rimane all'interno appunto di un quadro di compatibilità, se diventa così dura, così pesante e così invasiva, è chiaro che il problema si pone in qualche modo, si pone come perdita di quella garanzia che è la garanzia rischia di confliggere, appunto, perché quando un settore di classe, un settore di popolazione ha dei problemi che non vengono risolti in altro modo, ha soltanto il conflitto per poter esprimerli, manifestare le necessità e i bisogni, e quindi deve essere messo in condizione di poter confliggere. Se questa cosa rischia di essere annullata, torniamo in situazioni che, senza voler fare, però è chiaro, sono i paesi, diciamo, i regimi dittatoriali che impediscono, che azzerano il conflitto, e rispetto ai quali, appunto, l'atteggiamento deve essere un po' diverso. Anche, e difatti, ecco, questo è un problema che non affrontiamo oggi, però lo affronteremo nelle prossime trasmissioni, perché tutto questo insieme, diciamo, di forti repressioni, appunto, delle dalla manifestazione ai movimenti come Val di Susa, alla lotta per la casa, cioè, tra un po', probabilmente a luglio andranno in Cassazione, quindi in definitivi, addirittura quelli di Genova, i fatti di Genova, anche che veramente forse da Genova, no, che ormai sono passati più di 10 anni, ha segnato un po' una svolta, cioè la pesantezza, appunto l'introduzione del reato di devastazione a saccheggio, che praticamente era non più usato in questo paese se non dai tempi del fascismo, o in situazioni molto particolari, è stato dato in una manifestazione di 1000 che ce ne sono state nella storia di questo paese e degli altri paesi. Quindi è importante che, infatti, il movimento qui a Roma si sta dotando di una serie di strutture di soccorso, di solidarietà, per permettere di affrontare a tutto raggio quella che è, appunto, la repressione che si sta innalzando troppo forte, troppo ferocemente contro i movimenti. Quindi, appunto, anche il problema del percorso processuale dell'8 marzo va inserito all'interno di questo tentativo di affrontare, e per capire, ma è anche per contrastare, questa azione repressiva così feroce. Non so che altro vogliamo dire in merito agli andamenti, anche cioè come è stato vissuto da voi questi 2 anni e mezzo di dinamica, diciamo, repressiva punitiva. Ma io, se posso, sì, mi collego a questo discorso anche rispetto a quello che si diceva prima, che oltre che diventa un dispendio di energie tolte alla lotta in generale, energie fisiche, mentali, anche economiche, perché sottolineiamo anche questo aspetto, insomma, proprio perché se tu, come dicevi tu, settori di popolazione e di classe sono costretti a affrontare dinamiche del genere, poi devono affrontare tutta una serie di problematiche a ampio raggio. Ma diciamo che un aspetto anche in parallelo, viaggiano in parallelo, che sono coloro che subiscono la repressione e quindi poi hanno una limitazione della libertà di azione, eccetera, ma anche questa forma qui poi di repressione fa da deterrente a tutti, per cui poi, come appunto si diceva prima, come stavate dicendo voi, poi diventa un limite nelle lotte, e quello che ci è successo a noi poi in prima persona, perché poi tutto questo ci ha portato a appunto, dovendo affrontare tutto questo passaggio qui che è fatto di carte, avvocati, limitazione della propria libertà, e quindi poi quello che implica tutto il fatto che fare poi politica diventa un problema, perché c'hai costantemente, sei monitorato, stai sotto controllo, e tutto questo passaggio qui, e questo poi lo subiscono anche gli altri poi di riflesso, perché poi quelle persone che sono interessate, si avvicinano a percorsi di lotta, poi vedono qual è il meccanismo che si innesca, e quindi poi la conseguenza di tutto questo meccanismo, e a un certo punto di vista fa un po' da deterrente. Vediamo poi le ultime repressioni anche legate al 15, cioè sono andati giù anche lì con la mano pesante, e notiamo, cioè, per quanto mi riguarda, insomma, io ho notato che poi le persone colpite hanno tutte un'età molto giovane, e insomma questo a me fa pensare che non è casuale, cioè vogliono anche comunque dare un segnale a tutte quelle nuove leve che stanno crescendo con un senso di soddisfazione e di voglia di lottare, e che poi si ritrovano a subire una repressione pesante, che poi questo non lascia un grosso margine di sviluppo. Quindi poi, ecco, bisogna avere una grossa forza di volontà e una grossa condivisione e partecipazione poi con tutto quel movimento di solidarietà che si crea attorno, e che poi fa sì che Invece poi si veda una via di scampo a tutto questo meccanismo, e quindi poi si generano tutte quelle situazioni che come dire, permettono poi un sostegno reciproco e che quindi poi danno un po' di respiro e forse fanno sì che un pochino le lotte vengano, diciamo, non vengano lasciate a questa repressione, in mano a questa repressione, ma si rigenerino, ecco, abbiano poi un respiro da questo punto di vista. Ci prendiamo uno stacco musicale e poi andiamo avanti. Good tonight. window glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. I sing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The stars. Allora, 15:41, riprendiamo. Dicevamo che questa settimana in particolare, però purtroppo non solo questa settimana, ci sono appunto parecchi processi in vari ordini e gradi che appunto hanno aggredito appunto il movimento in varie sue articolazioni. Allora, come abbiamo detto, il 17 febbraio ci sarà qui l'udienza preliminare per i compagni e le compagne dell'ex occupazione della scuola 8 marzo. Magliana, e contemporaneamente il 17 ci sarà anche il processo contro i compagni della Rete Romana per la Palestina, che durante una manifestazione furono aggrediti. Poi il 22 febbraio ci sta sempre a Piazza di Clodio processo altri due compagni arrestati del 15 ottobre. Il 23 febbraio invece presso la Cassazione, quindi a Piazza Cavour, non a Piazza di Clodio, perché lì sta la Cassazione, andrà in Cassazione. Ci sarà l'udienza per il processo del Sud Ribelle, altro teorema spaventoso costruito intorno a dei compagni che appunto nell'area così di Cosenza, cioè, si muovevano sul terreno conflittuale normalmente e che allora è stato, nei confronti loro è stata disegnata appunto questa associazione per delinquere, un reato anche questo associativo abbastanza preoccupante. Poi durante la fase processuale chiaramente molte cose sono caduto, adesso ci sarà la Cassazione il 23, quindi questi tre appuntamenti ci permettono non solo di dare, esprimere solidarietà e quindi essere presenti in queste situazioni, ma anche avere appunto sempre più precisi un quadro di quello che è l'azione repressiva nei confronti dei movimenti, che come abbiamo visto in apertura è abbastanza preoccupante per il salto che pare intendano fare le forze repressive per pressoché azzerare i movimenti. E allora riprendiamo intanto con i compagni dell'8 marzo. Dopo questa ondata, questa aggressione che avete subito, qual è la realtà di Magliana dove voi appunto avevate concentrato la vostra attività? Diciamo, questo è il dato più triste, se vogliamo, di tutta la vicenda, nel senso che di fatto non voglio dire che è stato azzerato, però il nostro intervento territoriale su Magliana, che è da sempre molto radicato, ha subito una grossa battuta d'arresto per tanti motivi, a cominciare da quello che adesso siamo sparpagliati per la città ad abitare, fino a quello ovvio della ridotta agibilità politica, in particolare su quel territorio, visto che abbiamo a che fare quotidianamente con gli stessi individui delle forze dell'ordine che ci hanno costruito attorno il regalino. Ma la cosa ancora più fastidiosa appunto è che questo meccanismo ha minato l'occupazione dal suo stesso interno, costruendosi un po' col bastone, un po' con la carota, anche questo va detto, anche se è brutto da dire, ma un suo consenso all'interno di alcuni occupanti, il che di fatto poi ha reso impossibile, diciamo, ha di fatto allontanato i compagni in qualunque forma, di qualunque ordine e grado, dall'occupazione, che di fatto è ancora lì, ma è abbandonata al degrado più totale. E non mi meraviglierei se tante di quelle cose che ci hanno contestato a noi mo succedono per davvero. E quindi questa è al di là delle conseguenze sui singoli, che pure ci sono state, ma insomma la parte più antipatica è proprio questo. E... così. Bene, allora concludiamo questo, questo ricordo perché l'abbiamo fatto più volte, però come dicevamo prima è sempre utile, perché ormai fa parte della questa vostra vicenda, come le altre, fa parte della storia recente del movimento, che però è importante acquisire, sia perché appunto la solidarietà è un elemento centrale che mantiene coeso il movimento, e sia perché appunto conoscere ciò che è successo, soprattutto per chi arriva oggi, si impegna, i giovani che stanno venendo oggi sul terreno della lotta, insomma è importante che conoscano quello che è successo. E allora ricordiamo l'appuntamento venerdì, l'appuntamento lo diamo alle 10, però in modo che prendiamo le due dinamiche, perché c'è il processo vostro. Dicevamo prima anche per stare tutti insieme e solidarizzare anche con l'altro processo, quindi sì, alle 10 appuntamento sotto a Piazzale Clodio, poi le due udienze sono... Sì, l'altro processo è quello dei compagni della rete romana di solidarietà, sì, con la Palestina. Esatto, sì. Rete romana, E quindi appunto essendoci questa giornata diciamo che ci accomuna sul fronte giudiziario, facciamo insomma un appuntamento collettivo giù sotto a Piazzale Clodio alle 10, così insomma siamo tutti insieme. Perfetto. Poiché appunto abbiamo parlato, perché proviamo a riconnettere tutte le dinamiche antirepressive rispetto ai compagni e le compagne della NOTAV che sono stati arrestati, ci sarà questa grossa risposta il 25 indetta dal movimento NOTAV, che tra l'altro vuole fare un corteo lunghissimo, sono 8-9 chilometri, quindi un bel corteo, e per significare proprio la volontà che non ci sono buoni e cattivi in un movimento, ma il movimento esprime in forma casomai diverse, articolate, il no a quella, l'obiettivo è no a quella obbrobrio di NOTAV, e quello è raggiunto quell'obiettivo, tutti vogliono raggiungere quell'obiettivo. Quindi ci sarà, come da Roma abbiamo detto già più volte a questi microfoni, si stanno organizzando dei pullman per andare su in Val di Susa per il 25. Chi volesse andare su può ancora telefonare a questa radio, lascia il numero, poi verrà chiamato e gli verrà detto appunto qual è l'appuntamento e dove, e quindi le prenotazioni si raccolgono in questa radio, potete telefonare fare quando volete, quando c'è qualcuno qui, c'è sempre dalla mattina fino alla sera tardi. E non sappiamo ancora esattamente il prezzo, ma si aggirerà intorno ai 10 euro, vediamo, speriamo, insomma, dipende da come riusciamo a contattare, contrattare con chi ha questi chi, pullman per andare su il prezzo, però appunto si aggirerà intorno a quella cifra, per cui anche lì una grossa presenza di massa da tutta Italia è importante per dire no alla repressione in quel caso. Sì, secondo me è importante anche perché, almeno questa è la mia opinione personale, la lotta della Val di Susa credo che sia quanto di meglio si possa riuscire a fare, tra l'altro con 20 anni di lavoro politico dalle spalle, nel 2011 in Italia, per cui se perde persino quella diventa un segnale molto negativo per come la vedo io. Certo, certo. Sì, sì, diciamo che quella è una frontiera che deve essere su cui dobbiamo fermare la repressione, mo per parlare in toni diciamo, però è ovvio, lì va fermata la repressione perché è un modo per poi cercare di farla arretrare un po' su tutti gli altri terreni di lotta. In Val di Susa la repressione non deve passare, il modo migliore per esprimere la grande partecipazione di massa è il 25 a Bussoleno. Quindi telefonate in radio se volete prenotare il pullman per andare su in valle. Che dire ancora? E l'appuntamento diciamo alle 10, quindi alle 10 mattina, venerdì, dopodomani, venerdì 17 è a Piazzale Clodio, tutte e tutti contro la repressione. Noi ringraziamo i compagni dell'8 marzo di Magliana e niente, auguriamo buona libertà, perché insomma chiunque è sottoposto alla repressione insomma, merita la libertà. Noi invece ringraziamo la radio, ringraziamo te e tutti quelli insomma che hanno sempre partecipato e solidarizzano su questa vicenda e su tutte le vicende che insomma subiscono una repressione in questa città, in questo paese. See a black El Dorado. Down below my window, that black girl in the back looks pretty good. Christ, she's beautiful. You know how soft she is. Just what it feel like. Oh, I'm so far away from her. Jesus. This is Iggy. Yeah. You might as well come with me. And low ride. There's Tom. Allora, sono le 15:54 minuti, quindi abbiamo pochi minuti per fare soltanto così, delineare i punti che poi affronteremo la prossima settimana. E che riguardano appunto l'universo carcerario, stanno succedendo diverse cose, non tutte positive ovviamente, anzi quasi nessuna, però è bene appunto dire due cose. Come sapete il decreto del governo ha avuto l'approvazione perché ci ha messo la fiducia, quindi il cosiddetto decreto salva carceri, svuota carceri, è stato chiamato in mille modi, ma ovviamente né salva né svuota le carceri, come abbiamo più volte analizzato da questi microfoni dettagliatamente. Il decreto svuota carceri cosiddetto si basa su due pilastri, entrambi molto brutti. Il primo è che è stato elevato a 48 ore la possibilità di far permanere le persone fermate in flagranza di reato nelle cosiddette celle di sicurezza. luoghi quanto mai nefasti e terribili, questo per evitare appunto l'ingresso in carcere di chi si fa 2 o 3 giorni di carcere e poi riesce, che veniva chiamato con col solito linguaggio giornalistico le porte girevoli. In realtà è un problema perché sono circa 20.000 l'anno, oltre 20.000 l'anno che entrano in carcere per 2 o 3 giorni e poi riescono, però si poteva scegliere gli arresti domiciliari per queste persone, invece si è scelto la permanenza per lunghe 48 ore nelle celle di sicurezza, che sono delle celle spaventose, tra l'altro in balia di senza nemmeno il conforto di altri detenuti come vorrebbero trovare in carcere. Quindi su questo una condanna deve essere decisiva e pesante, su questo chiamiamo l'allerta di tutti coloro appunto che operano sul territorio per esercitare un minimo di vigilanza su quello che succede nei commissariati, nelle caserme dei carabinieri, vedere, che cercare di seguire le persone che escono da lì, perché poi si esce in genere il processo per direttissima dopo 2 giorni, quando viene fatto si esce, perché al 90% si viene rimessi in libertà perché sono reati piccolissimi, e quindi cercare di capire, di monitorare ciò che avviene in quelle celle. L'altro pilastro su cui si regge la cosiddetta svuota carcere è stato elevato da 12 mesi a 18 mesi la possibilità di scontare l'ultimo periodo residuo di pena, quando appunto mancano 18 mesi al termine della pena, in detenzione domiciliare. Il decreto Alfano di qualche anno fa l'aveva portato a 12 mesi, questa volta a 18 mesi. Non usciranno più di 2.000 persone e usciranno gradualmente tipo qualche decina ogni mese, quindi questo è del tutto ininfluente, perché non procede automaticamente questo provvedimento, ma le persone, i detenuti e le detenute che hanno un 18 mesi, un anno e mezzo di carcere ancora da scontare, devono fare istanza al Tribunale di Sorveglianza, che verrà discussa con tutte le lungaggini del caso, e quindi poi poter essere ammessi o no a questa misura di detenzione domiciliare. Tutto ciò allunga la situazione, non c'è nessun problema e nessun beneficio dunque. Quindi da una parte è negativo quello delle celle di sicurezza, dall'altra parte è completamente ininfluente. Un altro elemento che portava con sé questo cosiddetto provvedimento, decreto svuota carceri o salva carceri, riguardava la chiusura degli OPG. Ne abbiamo parlato tante volte, gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, ossia i manicomi criminali, quella vergogna che ancora esiste, veri e propri lager di tortura. La definizione non è nostra, anche se noi la condividiamo, ma di chi, parlamentari, senatori, l'hanno visitati qualche anno fa, gli OPG, i manicomi criminali. E tra un anno e qualcosa, diciamo a metà del prossimo anno, verranno chiusi, questo dice il decreto. Però non chiusi le persone in qualche modo riaccolte nella società in situazioni piacevoli, ma si chiede che le regioni provvedano a realizzare sul territorio una serie di micro strutture del genere per ospitare queste persone che verranno dismesse dagli OPG. Come saranno fatte, non dicendo una parola, come verranno fatti questi micro OPG, queste case di cura, non ci dice come verranno attrezzate, non ci dice se avranno ancora una volta l'aggressione psichiatrica oppure appunto un altro tipo di argomentazione. Insomma, il problema della chiusura degli OPG non affronta, e questo è il fatto grave, non affronta il tema del controllo psichiatrico, non affronta il problema del controllo della mente, non affronta il problema dell'assurdità della categoria malattia mentale con la quale si è sempre cercato di controllare le persone, pensando che la mente, ossia il pensiero, quello che determina i comportamenti delle persone, sia un organo come un piede, come lo stomaco, come un rene, che si possa curare. È tutt'altra cosa. Quindi il concetto di malattia mentale è un concetto che non sta in piedi, perché non esiste il cervello, però le malattie al cervello vengono curate dalla scienza neurologica, che è tutt'altra cosa del controllo psichiatrico. Il controllo psichiatrico è stato attuato per controllare gli atteggiamenti, i comportamenti delle persone, i cui comportamenti hanno come dire, vengono causati da tantissimi fattori, sicuramente ambientali, relazionali, affettivi, di tante altre cose indeterminate da questo punto di vista, e che però si vorrebbero appunto ridurre al fatto, quindi la mente, il pensiero, ciò che produce i comportamenti delle persone, si vorrebbe, diciamo, curare come se fosse un'ulcera allo stomaco da operare oppure da risolvere con una pasticca farmaceutica. È un concetto aberrante, quindi il problema della chiusura degli OPG andava affrontato con una critica radicale, forte, al discorso del controllo psichiatrico della malattia mentale. Questo non è stato fatto, quindi sarà una devastazione, perché chiunque mette mano su quel terreno senza avere un approccio critico nei confronti appunto dell'approccio psichiatrico, è chiaro che produce soltanto dei danni. Così è stato e così continua a essere. Ricordiamo che nonostante la chiusura dei manicomi in Italia, grazie alla legge cosiddetta Basaglia, si attua ancora il TSO, che con il quale appunto si usa il bombardamento farmacologico delle persone, la camicia di forza, l'elettroshock, cioè si usano strumenti di tortura di questo tipo, devastanti per le persone, per cui va affrontato mettendo in discussione proprio i concetti base del controllo psichiatrico, che tra l'altro si sta espandendo a tutta la società sotto altre forme. Quindi è negativo l'approccio.